proprie delle più comuni alterazioni del respiro. Dagli esempi incisi si rileva come sia possibile fare una diagnosi clinica e differenziale già in base ai numeri respiratori percepiti anche a distanza, ossia non prima ancora di ricorrere. I principali disturbi respiratori possono essere suddivisi in quattro gruppi: le dispnee funzionali, quelle su base cardiaca, quelle su base polmonare e le dispnee negli stati comatosi. Dal gruppo delle dispnee su base funzionale riportiamo due esempi. Esempio 1, sindrome respiratoria da psiconeurosi.